come potete sentire, perché insomma i rumori di sottofondo parlano abbastanza chiaro. Ciao, pronto, Peppe, ci siamo. Ciao, pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora per chi è all'ascolto, siamo in collegamento telefonico con Palermo, in cui ormai da un bel po' insomma ha preso le mosse il corteo che era stato indetto per questa mattina e che sta coinvolgendo tante categorie sociali. Sì, noi ti sentiamo, descrivici il corteo, Luca. Peppe, okay. Scusa. Niente, stiamo parlando di un corteo di almeno 10.000 persone, reale, delegazioni da tutta la Sicilia, quindi fondamentalmente agricoltori, pescatori, anche qualche rappresentante degli autotrasportatori, anche se diciamo in minore parte, in minore componente rispetto invece ai precedenti giorni. Nulla, insomma, i slogan sono tutti contro il governo regionale e contro quello nazionale, una composizione molto popolare, appunto, passa diciamo all'occhiello, no? Nessuno striscione di partito, nessuna bandiera appunto di partito, sono presenti solo bandiere della Sicilia, e nulla, insomma, quindi si procede in corteo, insomma, non ci sono particolari altre cose da segnalare, di sicuro una grande partecipazione. Che comunque viene per fare ulteriore pressione al governo nazionale e al governo regionale, che comunque stanno al momento discutendo appunto a Palazzo Chigi attorno a questa vicenda. È insomma un momento questo che sta esprimendo in modo molto forte il disagio economico che vive la Sicilia e la città di Palermo, la grande disoccupazione. Non si sente completamente. Io sono in un posto dove potrei sentire, immagino. Ma proprio il collegamento non si sente, cioè non riesco a sentire. Guarda, ci riproviamo. Pronto? Dicevamo, ci senti, Peppe? Pronto? Peppe, ci senti? Aspetta un attimo che ci senti? Ma viene la comunicazione, cioè non riesco proprio a avere una una percezione completa, cioè, no, non si sente. Dicevamo insomma che questo movimento sta segnalando. Ma proviamo adesso, perché poi guarda. Dove la richiamare, non capisco nulla. Adesso ci senti? Adesso sì. Ecco, abbiamo alzato un po' il cursore. No, dicevamo che chiaramente insomma questo movimento e le espressioni, la composizione esprime un po' il disagio economico che la Sicilia vive, che vive la città di Palermo, con una grande disoccupazione, il lavoro che non c'è. Si può anche andare però un po' al di là, diciamo, delle richieste particolaristiche delle categorie. La sensazione sì, è quella. Sì, ma è chiaro che è una vicenda questa che non è semplicemente particolare, cioè ci sono anche molti striscioni dei disoccupati che comunque vengono dai vari paesi che vi sono aggiunti, comunque in generale la connotazione sembra proprio quella di una protesta contro la crisi, cioè più che almeno nella percezione che dà attraverso gli striscioni, attraverso diciamo i cori, no? Quindi insomma di sicuro in Sicilia per come si è sviluppato è un movimento che riesce a parlare alla maggioranza della popolazione, cioè non si tratta tanto di una vicenda corporativa, no? O almeno come poteva sembrare, come può sembrare. Certo, certo. E in questo tipo di costruzione, diciamo, di un dialogo possibile, gli studenti che tipo di ruolo recitano, Peppe? Ma in questa fase considera che fondamentalmente c'è stata una presenza studentesca dei compagni degli studenti medi che diciamo hanno interloquito da subito sia con i presidi che con le forme di lotta che il movimento si è dato. Quindi c'è sicuramente questo tipo di interazione che comunque è stata particolarmente importante, quella degli studenti. E poi scusa, come se appunto dicevo, fondamentalmente gli studenti universitari e medi hanno interloquito con questa forma di protesta, facendo diciamo blocchi presidi insieme appunto agli autotrasportatori, l'altra volta c'è stato comunque un passaggio importante a Renzo e Palermo, cioè quello di un corteo di studenti, di migliaia di persone, che ha fatto diciamo un corteo che poi è finito, uno dei blocchi, e quindi è entrato in solidarietà con le proprie rivendicazioni, che chiaramente erano quelle della posizione sociale alla crisi, quella della rivendicazione di reddito per tutti, e quindi insomma si è spostato sul problema della precarietà. Però appunto si guarda e si dice che siano soltanto delle rivendicazioni corporative, però ripeto, sono qui almeno sulla Sicilia, o almeno posso parlare di Palermo oggi, comunque in questo periodo, sono delle proteste che riescono a parlare a una maggioranza della popolazione. Poi è evidente che nelle pratiche diciamo c'è stata anche una relazione possibile, nel senso che quelle pratiche sono state adottate in questi giorni, non tanto oggi ma nei giorni precedenti, sono quelle comunque degli studenti, no? Quella del blocco, quella dell'impedire la circolazione delle merci della città, insomma comunque quelle fatte dal movimento studentesco negli anni scorsi, negli anni immediatamente scorsi, anche quest'autunno, quindi almeno qui a Palermo. Quindi comunque segnali di un'interlocuzione che non solo è possibile ma è proprio già esistente, non ci sono altri corpi estranei, tutti diciamo politici, che tentano dal lato dall'altro di cavalcarlo, no? C'è semplicemente un immergersi dentro questa lotta, cercando di generalizzarla, no? Cioè di farla diventare ancora più di quanto è una protesta contro la crisi. Certo, quindi una contaminazione, dici tu, insomma, che la si ritrova anche nelle forme di lotta adottate da questo movimento. Proprio per questo, anche in funzione del fatto che si sta cercando di porre le basi per un discorso comune, ci sono delle assemblee che vengono svolte insieme tra le varie categorie, gli studenti e anche la popolazione? Dei momenti di discussione veri e propri, insomma, di confronto? È caduta la linea proprio mentre ci aspettavamo una risposta da parte del compagno. Magari insomma più tardi proveremo a richiamarlo. Certamente insomma attorno a lui una situazione molto ma molto vivace, era abbastanza percepibile, quindi circa 10.000 in corteo a Palermo, un corteo che quindi ha raccolto moltissime adesioni, manifestanti che diciamo recitano slogan e cori soprattutto all'indirizzo della politica, che a parer loro, insomma su questo ci sono pochi dubbi, ha diciamo no abbandonato, non solo insomma disinteressandosi della sorte insomma di tante categorie, ma diciamo ha storicamente voltato le spalle alle regioni insomma soprattutto del sud, abbandonandole appunto a uno stato di miseria perenne. Evidentemente le risposte di questi giorni insomma sono dovute anche a questo, a una situazione come dire atavica di lungo corso, ed è normale anche che gli studenti insomma si affaccino per cercare di capire quanto sta succedendo. Magari più tardi cercheremo di ricollegarci nuovamente con la piazza di Palermo allora.